dolce caldo amore. È da tempo che attendo il risveglio qui accanto a te. Resta con me, almeno per un altro inverno, che io possa accontentare questo cuore dentro me. Resta con me.